Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Nella nostra giornata piena di affanni, corse, impegni, cose da fare, c'è un momento magico in cui, come per incanto, il ritmo cambia. Il momento magico, il perfect moment, arriva alle 20:44. A quest'ora, secondo un sondaggio condotto su 3.000 persone riportato dalla sede londinese dell'Asia New Year International, la coppia inizia a rilassarsi. Dei single non si fa menzione, quindi non voglio sbilanciarmi, ma in linea con noi abbiamo Salvatore Patriarca, che è responsabile editoriale di Salute 24, che ha qualche dettaglio in più, dato che è la fonte della nostra notizia. Salvatore, ciao, bentornato. Ciao Nicoletta, buongiorno. Allora, Salvatore, c'è questa ora X. Questa ora X che sono le 20:44 della sera. La cosa più divertente però è questa, che è un lungo percorso quello per arrivare al perfect moment, perché bisogna iniziarlo intorno alle 8, quando ci si inizia a rilassare, si incomincia ad abbandonare quelle che sono le tensioni della giornata, e servono circa 40 minuti per arrivare a quello che è il momento perfetto in cui lui e lei finalmente riescono a ritrovarsi e a poter avere un momento tutto per loro. Senti, chi riesce a rilassarsi prima è meglio, gli uomini o le donne? Perché la ricerca lo dice. Fortunatamente per noi, prima gli uomini. Fatevi delle domande. Riescono a rilassarsi prima perché, e questo lo dico con un po' di colpevolezza di genere, hanno meno cose da fare quando tornano a casa, quindi Salvatore. Riescono a rilassarsi perché hanno meno impegni, tanto a livello di faccende domestiche quanto di preoccupazione per i figli. Quindi. Salvatore, tu cosa fai per rilassarti quando torni a casa? Pantofole TV, leggi un libro, scivoli dentro la vasca da bagno, cucini, lavi i piatti, che fai? Io tendenzialmente faccio un tè. Tè e con una piccola passione che mi trovo, e serie televisive americane in inglese. Questi sono i miei due modi per rilassarmi. Per arrivare. Tè nero e serie televisive. Fantastico. Senti, noi oggi vogliamo proprio chiedere ai nostri ascoltatori di raccontarci, di portarci dentro alla loro casa e di raccontarci il luogo in cui si rilassano, ma anche gli oggetti che utilizzano per il loro relax. Sai che in questi giorni a Milano c'è un grandissimo evento, c'è il Salone del Mobile, è un appuntamento che richiama gli addetti ai lavori e non solo, e il design sicuramente è entrato nelle nostre case a volte per portare benessere, a volte invece ci ha un po' allontanato, ma di questo parleremo. Allora volevo chiederti, ad esempio, chiudendo gli occhi, l'oggetto di design del tuo relax quale potrebbe essere? Magari non ce l'hai ancora e potresti anche acquistarlo, ma insomma non è un invito a farti spendere soldi, voglio solo capire un po' di più. Una bella poltrona che massaggia, questa è una cosa che è un acquisto che probabilmente vorrei fare nel prossimo periodo. Una poltrona che massaggia dal collo fino ai piedi. Dal collo fino ai piedi, sì. Schiena soprattutto, perché stando molto seduti e davanti al computer, diciamo, le nostre schiene subiscono molto, ecco. Quindi io me la vedo un po' come una chaise longue. Sì, una cosa del genere. Una cosa del genere. Questo è l'oggetto del relax di Salvatore Patriarca, che saluto. Vi rimando anche a Salute 24, dove trovate sempre delle notizie interessanti e curiose e molto rigorosamente scientifiche. Salvatore, grazie. Grazie a te Nicoletta, ciao, a presto. Grazie, un abbraccio. Adesso tocca a voi, scriveteci, chiamateci, relax a casa, istruzioni per l'uso, angoli, luoghi, oggetti che ci aiutano appunto a raggiungere il relax. 800 24 00 24, parliamo anche di sogni, di desideri. Potete mandarci un messaggio al 349 238 6666. Per rilassarci avremo tempo di farlo magari questa sera con i consigli che ci ci daranno i nostri esperti. Adesso io vi chiedo però di attivarvi con le vostre telefonate, con le vostre ricette di relax, perché la ricetta più rilassante, più attivante, riceverà a casa il libro manuale di aromaterapia. Voglio andare a casa. A casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te. Oh Signore. E qui in questa che è un po' la mia casa, con me il professor Marco Casamonti, professore ordinario di progettazione architettonica alla Facoltà di Architettura di Genova e direttore della rivista Area del gruppo Sole 24 Ore. Buongiorno professore architetto. Buongiorno a te, ciao Nicoletta. Ti chiamo Marco. Sì. Ecco. Senti, in occasione del Salone del Mobile, per voi è un momento importantissimo questo. A me è piaciuto molto perché il direttore ha deciso di dedicare proprio il numero di Area interamente al relax, quindi una rivista rilassante, posso dire. È un numero in controtendenza rispetto alla vita che si svolge a Milano in questi giorni, che è assolutamente confusa, assolutamente frenetica, ci sono eventi in continuazione. Allora noi abbiamo deciso di controcorrente, di fare un numero che parla di relax e di celebrare quegli oggetti che aiutano la nostra vita a essere meno stressata, meno di corsa, meno convulsa. E quindi è un invito e un auspicio che faccio anche a me stesso, naturalmente. Senti, Salvatore ci parlava di questa, lui sognerebbe una chaise longue con un massaggiatore incorporato, esiste? No, assolutamente esistono poltrone che massaggiano, esistono oggetti di design meravigliosi. La tradizione delle grandi chaise longue è una tradizione lunga. Le Corbusier ha disegnato una celebre chaise longue che poi è riprodotta da un'azienda italiana importante che è sul mercato. Devo dire che questi oggetti si disegnano sempre meno. Questo è un po' il problema, perché lo spazio domestico, adesso io non voglio essere, come dire, troppo disciplinare nella, perché è una trasmissione ovviamente la nostra generalista, è questa dove tu mi hai invitato, ma in realtà c'è un problema che lo spazio domestico di oggi in qualche modo è diverso da quello che era ieri. La casa, che dovrebbe essere appunto il luogo della domesticità, tende ad espellere le attività domestiche che un tempo si facevano e che erano appunto attività per i temporali. Stare bene, rilassarsi da lavoro. Le case sono sempre più piccole, sempre più ridotte di dimensioni e quindi, come dire, ci sono anche dei palliativi. Si va in palestra, si va agli appuntamenti, poi si torna a casa, però la casa non è più quello che era un tempo. Non è più quella di prima. Anche la vostra casa è cambiata. 800 24 00 24. È vero, la casa di ieri sembrava più accogliente, rilassante. La casa di oggi, insomma, succede un po' quello che tu mi dicevi prima di entrare in onda con la casa, quello che succede con il cibo, no? La dieta mediterranea, quella bella, no? Dei piatti, della tradizione, ha lasciato spesso il posto al fast food, al mordi e fuggi. E lo stesso la casa. Le case prima erano più grandi perché costavano anche meno, più accoglienti, pensate proprio per accogliere la famiglia, il nucleo familiare, gli amici. Adesso tutti gli spazi sono un pochino più ridotti e uno cerca fuori di rilassarsi. A casa diventa una sorta di passaggio, no? Per dormire. Sì, sto estremizzando naturalmente, ma ecco, non troviamo più, ma oggi troveremo il modo, gli oggetti, i luoghi. Raccontateci il vostro divano, ad esempio, ci sono delle storie, no? No, è proprio questo che credo l'utente comune debba chiedere agli operatori che lavorano nell'ambito del design e dell'architettura. Cambiano le condizioni sociali, cambiano le condizioni di vita, appunto la casa diventa una casa più ristretta, io direi meno confortevole, meno abitabile da un certo punto di vista, quindi è ovvio che chi opera in questo settore, diciamo i tecnici del settore, i designer e i cultori della materia, potremmo dire, devono fare uno sforzo per adattare la casa più piccola di oggi in realtà a una esigenza importante, che è quello di trovare delle pause, trovare fare delle pause in cui il corpo possa trovare quella quiete, quel relax, quel distacco dalla concitazione della vita quotidiana e anche dalla durezza del lavoro. Certo. Tutto è diventato più convulso. Un tempo si mandava una lettera, si mandava una raccomandata o si mandava una lettera, doveva arrivare, si aveva il tempo per riflettere, riscrive. Adesso siamo passati dal fax, che comunque consentiva un certo distacco, alla mail. Se tu non rispondi in tempo immediato, come dire, sei fuori dal lavoro, dal business. È vero, sarà anche per questo che il problema diventa sempre più complesso. Il rilassarsi, lo sappiamo tutti, non è semplice, forse perché nessuno ce l'ha insegnato, ma credo soprattutto perché negli ultimi tempi abbiamo perso un po' la capacità di ascoltare quello che il corpo ci suggerisce. In ogni caso, noi, come sempre, come ogni giorno, cerchiamo di fare qualcosa, possiamo farlo, ad esempio capirne di più. Ci aiuta oggi il dottor Leonardo Milani, psicologo del benessere e, pensate, trainer delle frecce tricolore. Buongiorno, dottore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Sono contenta che lei sia in nostra compagnia, perché io con lei, se lei è d'accordo, vorrei lanciare questa domanda, questo invito ai nostri ascoltatori. Dimmi come ti rilassi, cosa cerchi e cosa fai per distenderti a casa e ti dirò chi sei, ma soprattutto se va bene per te. Certo. Sicuramente. Perché, dottor Milani, noi siamo un po' abituati a tenere separati fisico, il soma e la psiche, quindi il nostro corpo e la nostra mente. Noi pensiamo che dopo, ad esempio, essere stati in palestra, abbiamo i muscoli affaticati e sogniamo di stenderci sul divano. Oppure dopo una riunione particolarmente impegnativa, una giornata stressante, sentiamo il cervello che fuma e allora magari non vediamo l'ora di tornare a casa e di scivolare nella vasca e di lasciare che i pensieri fuggano via. Ma insomma, soma e psiche si parlano, per cui è un pochino più, no? Più complesso metterli d'accordo, rilassarli entrambi, perché se la testa fuma anche il corpo non trova giovamento e viceversa. Sicuramente, anche perché quando non riusciamo a staccare la spina emerge lo stress cronico, che è poi responsabile dell'abbassamento del sistema immunitario. E quindi ero molto d'accordo con quanto diceva il professore: rallentiamo, stacchiamo la spina, prendiamo piccoli momenti di riposo. Ma lei l'attività fisica in realtà è molto utile, perché in effetti scarica le tensioni ed è un'attività prioritaria. Il problema è che la mente continua a girare sui problemi, continua a girare su quello che è successo e anche certe volte a quello che deve succedere. Senta, dottore, ma lei quali sono, come aiuta una persona che insomma non sta bene quando torna a casa? Insomma, dice: io non riesco mai a staccare la spina, vado a casa e continuo a lavorare e poi continuo a pensare, poi ho il lavoro, i figli da accompagnare a casa. Ecco, abbiamo mille pensieri in testa, mille esigenze, dobbiamo partire da un punto. Lei come fa? Perché tutti noi siamo diversi. Sì, beh, oddio, la mente è uguale per tutti, quindi il problema nostro è quello di concentrarci sul presente e orientare il pensiero su quello che si sta facendo. Questo automaticamente porta la mente ad allenarsi alla concentrazione, all'attenzione e quindi a sfruttare questi piccoli momenti di riposo senza spostarsi nel tempo o nelle preoccupazioni. Si può fare con un training, ma si può fare anche con la musica, con la lettura. Si parlava di casa, anche l'angolo della casa con la poltrona potrebbe essere lo spazio giusto. Andiamo a Cuneo, perché ci aspetta Carmen all'800 24 00 24. Luoghi, oggetti di benessere, quelli che ci piacerebbe magari avere, acquistare, procurarci, recuperare. Carmen, buongiorno. Buongiorno. Lei come si rilassa a casa? La sua casa è confortevole? Sì, anche perché l'ho risistemata, l'ho ridipinta 2 anni fa e ho messo tutte le cose che mi piacevano. Allora, io sono single e non si è parlato di single. Non lo dice questa ricerca, guardi che non ho capito perché, si sono concentrati solo sulla coppia, io sui single, magari però se lei è single, lei ha un'ora X, il perfect moment. 8:30. 8:30, vedi, quindi è pronta per una vita di coppia, anche lei, perché più o meno coincide. No, sono separata da un anno, per cui non voglio sapere. Allora è ancora tarata con il perfect moment della coppia. Comunque, sì, che però fa? Però a casa e sono contenta, mi piace la mia casa, quindi... Sì. Comunque, allora, escludendo la camera da letto, perché non ha piacevoli ricordi, ho solo il computer, escludendo la sala e il divano, come avete detto voi, Sì. Perché c'è la televisione, ci sono cose impegnative da fare, leggere il giornale, guardare le notizie alla televisione. Adesso le dico, c'è la mia cameretta. All'8:30 invece nel mio piccolo letto nella cameretta. Sì. Con davanti l'armadio bianco con foto scritte, appese, non so, dire cose varie, e soprattutto i miei due cani sul letto con dei grissini e mezz'ora con gli occhi chiusi dello stesso film ormai da mesi, Orgoglio e Pregiudizio, in inglese con gli occhi chiusi. Vedi che i film in inglese vanno. Volevo chiedere al nostro esperto, che io adesso chiamo Marco ma in realtà è architetto e professore di progettazione architettonica, direttore di area, basta così, certo. Ma Marco la nostra ascoltatrice penso che sia una persona fortunata, intanto se ho capito ha una camera e una cameretta e vive da sola, e già questo dà l'idea di una casa, di uno spazio in cui c'è, oltre la stanza dei ricordi non piacevoli, però c'è un altro spazio dove chiudersi, raccogliersi, pensare liberamente o ascoltare un film in inglese. Beh, l'inglese vuol dire, come dire, un momento anche di evasione rispetto all'italiano, la lingua che si parla frequentemente in ufficio, quindi è una persona fortunata perché ha degli spazi che si è ritagliata. Ecco, quella che è la riflessione che dobbiamo fare oggi è questo. Le case, abbiamo detto, diventano sempre più piccole. Pensiamo soltanto alla cucina. Un tempo la cucina è il luogo dove si raccoglieva la famiglia, ci si raccoglieva anche per pranzo. Adesso le cucine sono spazi minimi e forse non si cena, non si sta più neanche a casa, addirittura si mangia sul letto con dei grissini. Ecco, questo vuol dire che abbiamo perso una parte. La nostra ascoltatrice lo trova rilassandosi nella sua cameretta. Ecco, però è importante, anche se le case sono piccole, che chi lavora nell'ambito del design e dell'architettura aiuti la persona a vivere e trovare nello spazio domestico quei momenti della domesticità di un tempo, cioè dormire, stare sul divano, ascoltare musica. Questi sono estremamente vitali, estremamente importanti e consentono una migliore qualità della vita. Questo è un auspicio, ovviamente. Ecco, dobbiamo tendere verso questa direzione. Dottor Leonardo, dottor Milani, lei che insomma insegna, anche trainer, quindi oltre a essere psicologo, insegna un po' alle persone a riprendersi un po' in mano, lei come si rilassa? Io mi rilasso leggendo dopo le attività di casa, quando uno rientra, la lettura credo che sia una cosa per me importante, quindi mi aiuta a staccare la spina. E mi dica anche l'oggetto del suo relax, qual è la poltrona, il divano? Il divano che ho scelto comodo in modo tale che ci si possa rilassare anche a livello corporeo, e quindi abbiamo creato un angolo dove possiamo riposare la mente. Andrea dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei. Come fa a casa sua per rilassarsi lei? Niente, io ho una taverna decisamente grande per quanto riguarda gli standard attuali delle case. Sì. E quindi in taverna, siccome sono uno shatsuka per passione, quindi nel tempo libero faccio trattamenti shatsu, mi ricavo 10 minuti, un quarto d'ora, una mezz'oretta, dove mi ritiro in taverna con della buona musica e mi metto in meditazione. Se poi capita anche di trovare un uke, quindi una, tra virgolette, paziente che vuol farsi un trattamento verso le 8:30, 9 di sera, tanto di guadagnato. Perfetto, sempre il momento magico. Sì. Grazie Andrea. Luisa dalla provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, forse lei non lo sa, ma la sua voce già contribuisce a rilassare. Luisa, grazie. No, guardi, non è un complimento gratuito, è la verità. Grazie. Allora, io abito in una baita in montagna. Fantastico. E dopo di me c'è solo un bosco. Quindi la massima tranquillità. E il modo di rilassarmi è alle 10. Io accendo Radio 24 alle 10. Sì. E mi metto sul mio lettino di plastica, al quale ho fornito un materasso comodissimo. E per 2 ore, ecco, sono le mie 2 ore. Ascolto Radio 24, perché ovvio, se il telefono è perché certo, sto ascoltando. Ma mi fa piacere. Ecco, volevo dire che con molta semplicità, senza spendere grandi soldi in poltrone massaggianti o rilassanti, ecco, 2 ore per me. Luisa, ci ha portato in montagna. Vedevo il mio ospite che era qua con occhi sognanti, perché forse vorrebbe anche andare lui, no? In una baita con il bosco vicino. Beh, assolutamente. Intanto parliamo ancora di nostri ascoltatori che sono privilegiati, anzi, sì. Vostri ascoltatori. Devo dire che è molto interessante questo. Chiunque pensa e parla e ci racconta, testimonia dell'idea del relax, la associa a uno spazio, sì, e a un oggetto. Lo spazio è la taverna, abbiamo sentito prima, o lo spazio è la casa in montagna, ma anche un oggetto, il letto, il lettino. Allora questo è un invito veramente in questi giorni di Salone del Mobile anche a girare tra i padiglioni, sì, a guardare gli oggetti, pensando che occuperanno uno spazio e anche accoglieranno il nostro corpo. Quindi bisogna guardarli non soltanto dal punto di vista estetico formale, certo, ma dobbiamo anche guardarli nella relazione e nella interazione che possono stabilire con la nostra vita quotidiana. Quindi questo mi piace. Gli oggetti, quindi, dal punto di vista funzionale anche, no? Devono funzionare bene, devono accoglierci bene. Noi andiamo subito ai mercati, abbiamo Filippo Auregi in regia, severissimo, ha sforato un po', e poi i mercati, meteo, 800 24 00 24, noi siamo qui. Essere e benessere. Senza dover cambiare buco alla cintura, e poi domani non andrò neanche al lavoro, neanche avvertirò perché il silenzio è d'oro. Tornerò con gli amici davanti a scuola, ma senza entrare, solo fuori a far la ola. Non ci saranno ripetenti, tutto e basta. Staremo tutti insieme nella stessa vasca. Oggi stavo per dire, ci mettiamo tutti dentro, scivoliamo dentro la vasca. Molti di voi ci stanno scrivendo: io mi rilasso nella vasca da bagno, ma noi giriamo un po' per le nostre case alla ricerca del luogo in cui amiamo un po' rintanarci, no? La casa diventa un po' una tana, adesso un po' meno di una volta, ma vogliamo riscoprire questa dimensione di cuccia, rigenerante della nostra casa. Vogliamo anche sapere quali sono gli oggetti che voi avete in casa, che avete acquistato proprio per il vostro relax. Vanno molte forti le chaise longue e i divani, ma io ho in linea con noi anche il nostro dottor Milani, che sembra l'abbia detto apposta per la rima, che essendo psicologo del benessere ci aiuta oggi anche un po' a recuperare questa dimensione tra le mura domestiche. Dimensione che, dottor Milani, come anticipava l'architetto Casamonti, noi abbiamo un po' perso. Cerchiamo sempre tutto sempre di più fuori e poco dentro casa. Lei conferma? Confermo assolutamente, anche se gli ascoltatori ci hanno dato una visione interessante di questo collegamento spazio-tempo, e quindi hanno, meditando, contemplando, hanno trovato il tempo con un atteggiamento mentale di ascoltare quell'oceano calmo interiore dove tutti i problemi possono sciogliersi. E questi atteggiamenti spesso sono ostacolati da eccessivo dovere, ci sono persone che hanno sempre qualcosa da fare, che fanno più cose in una volta e che quando si riposano alcune volte hanno anche sensi di colpa, perché spesso abbiamo una resistenza, no, a trovarci spazi interiori o spazi di tempo per poter riposare la mente. Roberto ci chiama da Verona, vediamo come si riposa lui. Buongiorno. Buongiorno, quello che io non capisco è di che tempo stiamo parlando e di che case stiamo parlando, cioè una volta quando, perché i miei nonni abitavano in quattro stanze, erano tre famiglie, quando ero piccolo io eravamo in quattro in una stanza a dormire, la vita si è sempre fatta al di fuori e non so, cioè, per esempio a casa mia la corrente è arrivata nel 1962 e l'acqua corrente è arrivata nel 75, provincia di Padova, insomma, sì, non è che sia sembrerebbe quasi Africa, ma voglio dire, ci sono molte più case adesso, c'è molto più spazio adesso. Una volta c'era molto meno spazio nelle case, era molto meno comode e la gente viveva molto più fuori, almeno. Però non so appunto di che case stiate parlando, di che tempi stiate parlando. Marco. A meno che non ci sia la prospettiva quella del bambino, che vede tutto grande da piccolo, poi quando è più grande vede le cose piccole. È una questione di prospettiva. È una questione di prospettiva, Marco? Come commenti lo spunto che ci ha dato il un po' provocatorio del nostro ascoltatore Roberto? No, l'osservazione è giusta, ma io direi che stiamo parlando delle case che offre il mercato. Voi pensate che negli anni 60 e 70 gli appartamenti a Milano avevano, generalmente quelli che si offrivano sul mercato per la famiglia, avevano dei tagli in termini di metri quadri generalmente più grandi. Mm. I 100 metri quadri, i 5 vani. Adesso sempre di più il mercato offre tagli più piccoli. Allora ci sono due considerazioni da fare. Certamente la famiglia è cambiata, le famiglie sono meno numerose, quindi potremmo dire che forse abbiamo anche più spazio, ci sono tanti single, famiglie magari con un solo figlio. Però è vero che c'è un fenomeno sociale, c'è un impoverimento generale della contemporaneità di oggi. Ci sono due fenomeni: la casa diventa sempre più piccola, alla vasca sostituiamo la doccia, visto che prima abbiamo citato anche questo, e quindi anche quel momento di relax, di fare il bagno, di diventa una semplice necessità funzionale di lavarsi, ma non assolve alla necessità del relax. La casa, ho detto, diventa sempre più piccola. C'è un fenomeno quindi di espulsione delle attività domestiche, ma anche, dicevamo prima, un fenomeno di espulsione delle persone dalla città. Ci sono molte famiglie oggi, proprio oggi, che vendono le proprie case in centro, magari una casa di 70-80 metri quadri, per comprarne magari una più grande fuori, con gli stessi denari, magari un po' li mettono da parte, un po' con questi denari acquistare una casa più grande perché hanno questa necessità. Quindi ci sono due fenomeni: uno dell'espulsione della vita domestica, dallo spazio domestico, dalla casa, e anche il fenomeno dell'espulsione delle persone dai centri storici per andare ad abitare fuori. Il che però sembra avere una casa più grande all'esterno sia migliore, poi si crea il fenomeno dell'inquinamento, della pollution, della mobilità, si innescano altri fenomeni sociali. È una condizione questa urbana generale che interessa molte città italiane, l'esperienza di Firenze, ma questo avviene a Milano, questo avviene, è venuto a Venezia. Quindi su questo dobbiamo ovviamente riflettere. Dottor Milani, e lei che riflessione fa da psicologo del benessere di questa tendenza? Sì, l'ascoltatore sicuramente fa una domanda importante, interessante. Ecco, lo stress viene analizzato all'inizio del Novecento, quindi quando si parla di un tempo la comunità scientifica parla sicuramente molto prima dell'età nostra, perché noi siamo più o meno anche quelli dell'avvento della televisione, quindi giustamente lui dice, ma insomma, avevamo anche meno tempo probabilmente. Quando si parla di persone stressate soprattutto dopo gli anni 20, anni 30. E noi siamo ipertesi per questo, è la malattia del secolo, l'ipertensione. E quindi va in sintonia con questa espulsione dalla casa di cui parla il professore. In linea con noi è tornata a trovarci dentro nella nostra casa del relax una grandissima campionessa. Abbiamo in linea infatti Federica Brignone, super campionessa di sci. Ciao Federica! Ciao a tutti, salve! Federica, tu sei sempre in giro per il mondo, quindi immagino che tu viva più in albergo che in casa, ma prima o poi anche tu a casa ci torni. Sì, esatto, è sempre bello tornare a casa, perché lo spazio che hai a casa, la cucina che hai a casa non c'è da nessuna parte, insomma. Il luogo più amato della tua casa quindi è la cucina per te, o poi ci sono degli altri angolini in cui una campionessa come te si riposa e concede il meritato relax a questo fisico così d'oro, direi? Insomma, io in cucina almeno d'inverno ci passo la maggior parte del tempo quando sono a casa, perché mi piace cucinare, è anche un modo per rilassarmi, per cambiare un po' pensieri, insomma. Mentre invece da adesso in poi mi piace tantissimo stare sul balcone a prendere il sole. Sì. E quello mi rilassa, perché sento proprio le ossa scaldarsi finalmente. È dopo vero, di freddo. Entra e dentro poi, questo esatto, sole. Esatto. E poi mi piace comunque non in casa, ma andare a passeggiare col cane nei boschi che ci sono intorno a casa mia. Quello anche è un momento proprio di tranquillità, di che fa casa, anche se si va fuori. Esatto. Io volevo chiedere al dottor Milani se da queste informazioni che ci ha raccontato e ti ha dato Federica, che profilo si fa di lei? Beh, è una persona che sicuramente sa ricavarsi degli spazi, e poi gli sciatori, gli sportivi hanno sempre dei training che li aiutano non solo ad affrontare la gara, ma come tutte le persone poi che vivono in giro per il mondo, in albergo, avere l'abilità di trovare quei piccoli spazi interiori. Loro hanno una grande capacità di concentrazione, quindi credo che rimanere nel presente per loro sia più facile che per noi. Allora, io saluto e faccio di nuovi complimenti, te li faranno tutti, ma mi associo a Federica Brignone, grazie per essere stata con noi. Noi andiamo, grazie Federica, noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e vi invito, se avete, se state pensando alla vostra casa, qualche cosa a casa vostra avvertite stonato, insomma mi piacerebbe, mi conforterebbe di più, sarebbe più comoda se, chiamateci 800 24 00 24, chiederemo anche consiglio all'architetto Casamonti, ci sono magari degli oggetti del relax, dei modi anche in cui, no, girare un po' il, per dire, il divano invece che da una parte, uno gira dall'altro, vedete magari fuori è già tutta un'altra roba. Sì, io sono convinto che ognuno debba gestire i propri spazi, sono assolutamente contrario all'architetto che disegna la casa nei minimi dettagli, dove mettere le pantofole, sistemare la libreria. Ognuno deve trovare un rapporto diretto con i propri oggetti, con il proprio vivere quotidiano. Se avete bisogno di un suggerimento, come dire, noi siamo qua. Essere e benessere. Un ascoltatore mi ha mandato un messaggio che insomma mi ha trasferito a casa sua in un'atmosfera, in un'immagine, in un colore, e mi scrive: la vecchia Frau rossa di camera mia, eredità di mia nonna, è il mio nuovo luogo di relax, soprattutto in questa stagione quando dalla finestra aperta filtrano i primi tiepidi raggi di sole. Aspetto tutta la settimana, il sabato, per tornare a casa e sedermici a leggere. Io trovo fantastico. Cioè, ricordatevi che noi abbiamo, come sempre, il consiglio di lettura di oggi è il manuale di aromaterapia 800 24 00 24. No, la poltrona Fra è assolutamente un must, nel senso che è veramente una poltrona comoda, confortevole e un oggetto di grandissimo design, pur essendo appunto riferita, come la chiamiamo, no, poltrona Frau, a un'azienda che la produce. Ma moltissimi, io faccio una riflessione dal punto di vista della storia dell'architettura e del design. Un tempo, e mi riferisco agli anni 20 e 30, mi riferisco alla grande stagione del Bauhaus, alla modernità, per anche storicizzare il discorso che stiamo facendo, tutti i grandi architetti disegnavano una poltrona. Ho citato prima la chaise longue di Le Corbusier, ma potrei dire la celebre poltrona di Mies van der Rohe Barcellona, che aveva fatto per questo padiglione del 1929, ma tantissimi, da Gropius, a Marcel Breuer, tutti gli architetti facevano un oggetto di benessere. Tutti i grandi designer si occupavano di questo. Frank Lloyd Wright disegnava i suoi mobili per le sue case. Vuol dire che al di là dell'architettura, al di là dello spazio, poi c'era un'attenzione anche all'oggetto, e si disegnava fino alla maniglia, si disegnava fino alla poltrona, storicamente si diceva dal cucchiaio alla città, cioè c'era una visione integrale del progetto che passava dalla casa, dallo spazio domestico all'oggetto domestico. Ecco, io devo dire che questo un po' si è perso, perché c'è una sorta di scissione tra designer e architetti, per cui si pensa che il designer disegna l'oggetto e poi l'architetto fa la casa. Ecco, forse io credo che bisognerebbe trovare questa visione. So, io ricordo ancora la stagione straordinaria che ha vissuto anche Milano negli anni 60 e 70, i celebri oggetti di Zanuso. Zanuso era uno straordinario design e uno straordinario architetto. C'era una visione complessiva, penso a Franco Albini, alle sue poltrone, alle sue librerie, insomma, architetti che quindi pensavano alla città, pensavano alla casa e poi pensavano anche all'oggetto domestico. Io un po' rimpiango, non voglio essere così nostalgico perché questo non avrebbe senso, ma un po' rimpiango una visione, come dire, complessiva dell'abitare e del progetto per l'abitare. Dottor Milani, ci sono delle case che assomigliano proprio ai loro proprietari, ci sono invece delle case, forse come ci diceva Marco, no? Quelle che vengono consegnate chiave in mano, che proprio del proprietario non sono assolutamente pensati, non sono in sintonia, non hanno, non rispecchiano, no? La psiche, il modo di fare, di vivere della persona che c'è dentro. Ma ci sono tante persone che proprio delegano ad altri l'arredo della casa, non scelgono, insomma non si fanno rappresentare dalla casa, lei non trova? Sì, sostanzialmente sono d'accordo, anche se credo il trasferimento della propria passione, del proprio modo di essere ad un architetto ci può anche stare. l'ascoltatore di prima parlava di questa frau storica del colore, del caldo, del sole, eccetera. Ho scoperto che è un'ascoltatrice. Che trasferire all'architetto potrebbe essere interessante. Dottor Milani, ho scoperto che è un'ascoltatrice perché mi ha scritto un altro messaggio, Carmen, e dice: dimenticavo vicino al lettino la lampada Berenice. Andiamo da Ennio, che ci chiama dalla provincia di Bari. Buongiorno Ennio. Sì, buongiorno. Questa mi sa che è proprio la trasmissione che fa per me, perché praticamente, ecco, volevo un consiglio, in quanto io nella mia casa non riesco a rilassarmi. Capita, da dire, però, e quindi non so, il consiglio è cambiare casa o non so, trovare qualcosa che me la faccia amare, rilassare. Eh sì, perché ci sono. Ennio, guardi che lei dice, Marco, sei d'accordo? Dice una cosa, perché uno dice casa dolce casa, ma è come un po' l'anima gemella la casa, no? Bisogna avere, costruirsi, è una relazione che. Beh, certamente se non si ha un rapporto piacevole con il luogo in cui si vive, certamente questo è un problema. A questo proposito, io dirò, anche rispetto al tema del design di cui abbiamo parlato, al tema del disegno dell'oggetto di cui abbiamo parlato, che uno dei designer che io amo di più dal punto di vista concettuale è un architetto, è stato un famoso architetto, Aldo Rossi. Lui disegnava degli oggetti e li ha messi in produzione anche per diverse aziende, che erano degli oggetti molto domestici. E non so, il suo tavolo è un tavolo di marmo, un'azienda l'ha chiamato per disegnare un tavolo di marmo, lui ha preso il tavolo della nonna con le sue zampe e l'ha fatto in marmo. Come dire che la casa è legata anche ai nostri ricordi, alla nostra memoria. Se non abbiamo la nostra casa, non è fonte di ricordi, non è fonte delle nostre storie, non racconta un po' di noi, questa casa diventa una casa un po' inospitale. Questo spiega anche il successo di alcuni oggetti di design, possiamo parlarne a lungo. Pensate per esempio al successo che ha in questo momento la nuova macchina, la 500. Perché ha tanto successo? Beh, certamente uno potrebbe argomentare dal punto di vista tecnico, io non sono in grado automobilistico, ma certamente è una macchina che evoca in noi ricordi, le prime passeggiate, i primi amori, i primi viaggi. Ecco, questo rapporto con la memoria è un rapporto importante, per cui l'ascoltatore probabilmente non ha un vissuto piacevole in questa casa. Sarebbe interessante indagarlo. Deve un po' portarsi a casa qualche cosa della sua vita, dei suoi ricordi, qualcosa che faccia casa. Dottor Milani, d'accordo? Sì, sono assolutamente d'accordo. Proprio in questo caso lui deve intervenire così sulle modalità personali di arredamento, trovare qualcosa che gli piaccia, trasformare piano piano, perché poi sono costi naturalmente, trasformare piano piano alcuni piccoli angoli in modo tale che sia più confortevole per i suoi stati d'animo. Questo è assolutamente importante. Intanto io inizio a dire che il consiglio di oggi di lettura, scusate, ma mi ha stregato il messaggio di Carmen, perché nel mio cuore c'è una poltrona frau e quindi il consiglio di lettura di oggi lo facciamo ricevere a casa in collaborazione con IBS a Carmen, e a cui auguriamo sabato di sedersi sulla sua poltrona frau e che ci sia il bel tempo in modo che i raggi del sole filtrino dalle tapparelle accarezzandola. Buona giornata a tutti, grazie per essere stati con noi. Ringrazio l'architetto Casamonti, direttore di Area, la rivista del gruppo Sole 24 Ore, che in occasione del Salone del Mobile dedica proprio al relax l'intero numero, tanti spunti, oggetti, insomma, guardatela, anche non perdetevi il Salone del Mobile, naturalmente una bellissima occasione è stata anche quella di conoscere il dottor Leonardo Milani. Grazie per essere stato con noi, dottore. Sentiamo presto. Buona giornata a voi, a domani allora. Essere e benessere.